Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buon sabato, ben ritrovati a tutti con il buongiorno nel weekend di Radio 24. Stiamo insieme fino alle 10, tra poco cominciamo con una rassegna stampa che ci porterà rapidamente verso il giornale radio delle 8, dopodiché riprenderemo con Si può fare a caccia di buone notizie. Cominceremo con un'intervista, ve lo dico subito, al garante degli scioperi, Roberto Alesse, e con il quale insomma cercheremo di capire, affronteremo un po' questo periodo turbolento che si annuncia, ma anche con delle contromisure, turbolento dal fronte degli scioperi naturalmente, scioperi nei mezzi pubblici, scioperi nella sanità, ci sono stati scioperi a scuola, ma con le contromisure che il garante sta mettendo a punto, in particolare a Roma per quanto riguarda il giubileo, come è avvenuto per l'Expo, sospensione del diritto di sciopero per molte categorie. E vedremo se questa si può considerare una buona notizia. Questo dopo il GR delle 8, poi avremo in studio con noi Davide Van der Sfross, va bene, questo più tardi. Adesso però, come detto, cominciamo intanto i nostri contatti, la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter è @ Si può fare 24, vai, cominciamo. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, i giornali di oggi che naturalmente sono ricchi di notizie sui vari fronti internazionali, da Parigi dove c'è la commemorazione per le vittime degli attentati del 13 novembre a eventi diciamo di guerra fredda. Il titolo del Corriere è: la guerra fredda tra Erdogan e Putin, tornano i visti per quanto riguarda diciamo le tensioni tra Mosca e Ankara dopo l'abbattimento di un jet russo da parte della Turchia, ma anche le frasi del ministro del lavoro Poletti sull'orario di lavoro e sul fatto di laurearsi a 28 anni con 110 lode non serve a un fico secco, ha detto Poletti. Poi insomma sull'orario di lavoro in particolare ha detto: è un parametro di lavoro di misura superato, e insomma l'orario di lavoro, e i sindacati si sono come da copione diciamo così risentiti, se non infuriati. Vediamo, allora cominciamo come dicevamo con il Corriere, il titolo principale è sulla guerra fredda tra Erdogan e Putin, Mosca chiede le scuse, Ankara non scherzi col fuoco, clima da guerra fredda tra Putin e Erdogan dopo l'abbattimento del jet russo nei cieli della Siria, nessun passo avanti da quando l'F-16 ha colpito turco, l'F-16 turco ha colpito il Su-24 russo. E siamo fermi lì, insomma, agli scambi di accuse, ma speriamo che ci si fermi assolutamente lì agli scambi di accuse tra i due leader, come vogliamo definirli, Erdogan e Putin, insomma due tosti, due che devono far vedere di essere tosti. In particolare la fotonotizia è quella delle autorità francesi sedute la piazza vuota con Hollande seduto da solo sulla sedia, immagini che avete visto tutti, il patriottismo francese, il nuovo patriottismo francese, scrive il Corriere, tricolore marsigliese. Durante l'omaggio solenne della Francia alle 130 vittime del 13 novembre, Hollande ha definito il nuovo patriottismo: ricominciare dando sollievo ai familiari, ai francesi sotto shock, agli invalids, dalla piazza, la splanada degli invalids a Parigi. Il presidente ha ricordato che le donne e gli uomini che non ci sono più venivano da tutto il mondo, 17 paesi oggi sono in lutto con noi. Insomma, la Francia rivendica questo patriottismo cosmopolita di nuovo, che è il marchio di fabbrica, proprio se vogliamo dire così, con questa espressione un po' brutale, della Francia stessa. Dicevamo della frasi del ministro Poletti che non vuole misurare il lavoro in ore. Questo metodo è un attrezzo vecchio, ha detto il ministro. La Camusso ha protestato: qui c'è gente che fatica. Dobbiamo essere capaci di immaginare un cambiamento dei contratti di lavoro che non abbiano più come misura unica essenziale di riferimento l'ora di lavoro, un attrezzo vecchio, ha detto il ministro. Ma segretario della CGIL Susanna Camusso ha risposto: la maggior parte delle persone ancora fa lavori faticosi dove il tempo è fondamentale. È chiaro che siamo di fronte ad una scissione, ad un mondo diviso in due, almeno almeno in Italia, nel quale sicuramente ci sono nuovi lavori, nuovi per modo di dire, da tanto tempo, intellettuali, adesso anche immateriali, con la digital economy, la sharing economy, dove probabilmente ha ragione Poletti, misurare il lavoro con l'orario è riduttivo. D'altra parte ci sono dei settori tradizionali che persistono, settori dove si fa fatica, dove l'orario, ha ragione Susanna Camusso, conta e come. E vedremo se insomma, si troverà un'intesa almeno sui termini, ma qui c'è molta sostanza oltre che una questione terminologica. Torniamo però ai temi internazionali con un'intervista a Romano Prodi, ex premier ma anche inviato del gruppo ONU sulle missioni di peacekeeping, cioè per riportare la pace proprio in Africa. E, insomma, è un parere autorevole, se vogliamo, quello di Prodi, che sul Corriere dice: vicini alla Francia, senza però ripetere l'errore della Libia, lasciamo a Parigi il compito che si è assunta. Trovo saggio il comportamento tedesco, simile al nostro, dice Prodi. Noi abbiamo tornato nello scacchiere del califfato, siamo impegnati in altri nei quali i tedeschi non lo sono. Possiamo aiutare i francesi dove? In Libano. Però siamo già anche in Afghanistan, in Iraq e in Kosovo. Rispetto a Berlino abbiamo una priorità che riguarda la Libia, alla quale dobbiamo prestare attenzione, dice Prodi. Dobbiamo essere vicini alla Francia, ma lasciare alla Francia stessa il compito principale che si è assunta. E ancora, la solidarietà alla Francia per le stragi subite va data, però non possiamo negare che c'è stato un cambiamento di fronte immediato. Qua stiamo parlando di strategie. Assad, dice Prodi, da nemico assoluto è diventato alleato. Il nostro nemico, l'ISIS, è comune. Tuttavia, su un'entrata in guerra, bisogna che la strategia venga ben meditata, proprio, dice, per evitare gli errori del passato, l'errore della Libia, dove è stato fatto cadere un regime a suon di bombardamenti e la situazione è rimasta incontrollata, lo è tuttora, anzi i problemi forse sono addirittura aumentati. La scottatura libica pesa moltissimo, dice Romano Prodi. Ancora su questo fronte possiamo leggere un'intervista ad Alain Touraine, un sociologo francese, il più grande forse sociologo di Francia, ormai ottantenne, novantenne, scusate, uno dei più autorevoli intellettuali europei, dice Repubblica: difendersi è giusto, ma salviamo le libertà. Anche qui viene ripetuto questo concetto, che però insomma è un po' da tutte le parti, la Francia, con tante voci, la Francia sta riportando al centro questa idea, quindi bisogna tenerne conto. La Francia fa bene a difendersi, come fa bene a bombardare l'ISIS in Siria, dice Touraine. Siamo in guerra, quindi dobbiamo reagire militarmente. Tuttavia non dobbiamo cadere nella trappola dell'esercito islamico, che vorrebbe un nostro intervento delle truppe di terra. In realtà l'orribile violenza della Jihad mira a farci perdere la testa, per spingerci a reazioni impulsive all'interno come all'esterno del paese. Noi invece non dobbiamo seguirli su questa strada. Come ha detto Hollande nel suo discorso in omaggio alle vittime, dobbiamo combattere i terroristi restando noi stessi, con i nostri valori, la nostra cultura e il nostro attaccamento alla libertà. Anzi, addirittura in questo momento, secondo Touraine, questa situazione che sta vivendo la Francia, drammatica, potrebbe essere invece l'occasione per rialzare la testa, per ritrovare un'identità perduta. Da diversi anni, dice Touraine, stiamo attraversando una fase di arretramento, siamo disorientati in crisi economica ma anche crisi politica, si riferisce sicuramente. Abbiamo dunque bisogno di rialzarci e di ricominciare a sperare. Oggi, proprio attraverso la prova terribile dei massacri del 13 novembre, e dopo Charlie Hebdo eccetera, noi francesi stiamo ritrovando un po' di autostima, un po' di noi stessi, che forse è il primo passo per poter uscire dalla crisi e ricominciare a guardare in avanti, dice Alain Touraine. Repubblica porta in prima pagina anche la notizia di un piano europeo contro il terrorismo, piano UE, schedati i viaggiatori e il web. Di che si tratta? Si tratterebbe di questo, di un piano a cui sta lavorando il Corps per Giustizia e Affari Interni, ovvero l'organismo che riunisce settimanalmente i rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Unione Europea, che sta valutando che cosa. I contenuti web verranno controllati periodicamente, quelli ritenuti più pericolosi saranno censurati o rimossi. Anche le chat, cioè i canali aperti di comunicazione tra utenti di piattaforme per esempio non convenzionali come le console per i videogiochi che sono state usate in passato dai terroristi, saranno accessibili agli investigatori, quindi diciamo un giro di vite sulla privacy. Tutti i passeggeri dei voli verranno schedati, i loro dati saranno conservati e resteranno a disposizione delle forze dell'ordine. Insomma, la nostra vita di europei, dopo i fatti del 13 novembre, è destinata a cambiare per sempre. Queste, diciamo, sono le previsioni, anche se, bisogna dirlo, su questa questione dei dati dei viaggiatori, ogni attentato sentiamo dire che verranno schedati e tenuti sotto controllo. Allora, delle due l'una, o questa schedatura non serve a nulla, oppure è la volta buona di farla seriamente, perché per esempio uno dei terroristi, Abaoud, il comandante forse della cellula che agito a Parigi, ha viaggiato tranquillamente dalla Francia al Belgio e la Siria più volte e anzi addirittura era già attenzionato. Il problema poi è cosa fare dopo, forse con personaggi come quelli che sono già risultato delle schedature e dei controlli. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra pochissimo. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. vi presenta Eccoci qua di nuovo, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Stiamo dando un'occhiata alle pagine dei giornali di oggi e insomma, con il titolo di prima pagina di Repubblica, terrorismo, ecco il piano europeo, schedati i viaggiatori e il web, è quello che avrebbe allo studio, diciamo, l'Europa come misure antiterrorismo. È insomma abbastanza chiaro e lampante che occorra una stretta dal punto di vista del coordinamento delle varie intelligence nei vari paesi che spesso e volentieri lavorano indipendentemente l'una dall'altra, anzi magari si guardano ancora un po' in cagnesco e quindi insomma queste sono le cose su cui sta discutendo l'Europa in queste ore. Misure però che insistono appunto su cosa? Sulla schedatura dei viaggiatori e sul controllo del web. Cose che insomma uno immagina che esistano già perché siamo ipercontrollati dai, insomma lo capiamo perfettamente dal punto di vista commerciale, basta aprire un qualunque sito e si capisce che loro sanno esattamente tutto quello che tu fai quando sei in navigazione. E allora che tutto questo serva anche a questa benedetta sicurezza, insomma, perché se dobbiamo rinunciare alla privacy per vendere scarpe, allora possiamo rinunciare alla privacy per essere più sicuri. Che diamine, credo che nessuno possa essere seriamente contrario a questo. Ma torniamo alla questione Poletti, su Repubblica. Poletti, basta con l'orario di lavoro, cioè c'è questa disputa sull'ora lavoro che è un attrezzo vecchio, secondo il ministro Poletti, e non permette più la necessaria innovazione. Abbiamo già detto la replica del segretario della CGIL Camusso, che guardando alle categorie di lavoratori che invece per i quali l'orario è importante perché fanno lavori usuranti, faticosi, l'orario è fondamentale, dice Camusso. Per il numero uno della UIL, Barbagallo, questo è liberismo sfrenato spacciato per modernità. Il commento di Chiara Saraceno: la rincorsa alla competizione su Repubblica, leggiamo solo qualche parola. Stiamo assistendo ad un progressivo slittamento del significato delle parole che definiscono il lavoro e i contratti di lavoro, che nasconde questo, diciamo, slittamento del significato delle parole nasconde radicali trasformazioni nei rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, dice la Saraceno. Il Jobs Act, forse non a caso detto in inglese, non ha riguardato affatto i jobs, ovvero la creazione di posti di lavoro, come uno avrebbe potuto aspettarsi, specie in un periodo grave di perdita di occupazione, ma ha riguardato il Jobs Act la regolazione dei rapporti di lavoro, lasciando intendere che le nuove regole sul mercato del lavoro in Italia, più che servire a creare nuovi posti di lavoro, servono a cambiare le regole dei posti di lavoro che ci sono già in campo. Il resto del commento su Repubblica. da cui traiamo anche però la notizia relativa alla scomparsa di un gigante, possiamo dire, forse del teatro italiano, se non altro per il cognome che portava, Luca De Filippo. Una vita a teatro nel nome di Edoardo, addio a 67 anni, ma non solo per il cognome che portava, che era un cognome pesantissimo, era stato all'altezza di questo cognome con le messe in scena e con la sua stessa capacità di recitazione, che ha portato nei teatri italiani per decenni le opere di Edoardo De Filippo. Da oltre un anno insisteva per fare tra i lavori di suo padre il grande Edoardo Non ti pago, commedia amara che parla di avidità, denaro, egoismo. Finalmente c'era riuscito, aveva debuttato a Napoli un mese fa, poi la schiena aveva cominciato a tormentarlo per il dolore, diventava ogni giorno un po' più curvo, il viso sofferente, e non ce l'ha fatta più a stare in scena. Luca De Filippo è morto a 67 anni ieri per un tumore che se l'è portato via in poche settimane nella sua casa romana, dove viveva con la moglie, l'attrice Carolina Rosi. Pensate che aveva esordito a 7 anni, in scena a 7 anni col padre, in Miseria e Nobiltà, interpretando il ruolo di Peppiniello. Da allora in avanti non si era praticamente mai fermato. Il ricordo di Tony Servillo: che dolore, dice il grande attore napoletano, gli devo moltissimo. E torniamo invece per un'altra notizia sugli altri giornali, ed è la notizia del Natale che non si festeggerà nella scuola, nell'istituto comprensivo di Rozzano alle porte di Milano. Per gli islamici è una provocazione, bufera sul preside che sposta il Natale. La festa di Natale è trasformata in festa dell'inverno e posticipata a fine gennaio. La classica Tu scendi dalle stelle sostituita dalle filastrocche di Gianni Rodari e dalle canzoni di Sergio Endrigo. Il tutto in nome della laicità della scuola e dell'insegnamento. L'istituto Garofani di Rozzano, Interland Sud di Milano, è un istituto da 1000 studenti, classi che vanno dall'asilo alle superiori, quindi tutto c'è dentro. Gli studenti stranieri sono tanti, il 20%, molti sono musulmani. La scelta del Natale laico si deve al preside Marco Parma, uno, scrive il Corriere, che qualche anno fa corse pure per la poltrona di sindaco del paese, sostenuto da una lista civica e da un movimento 5 Stelle ancora in fase embrionale. C'è nulla di male, perché detto così, uno che anni fa si era stato in carcere per, no, semplicemente uno che è stato candidato al Movimento 5 Stelle. Ma al di là di questo, le parole del preside: un passo avanti verso l'integrazione e per rispettare la sensibilità di chi la pensa diversamente, ha detto. Questa è una scuola multietnica, sarebbe stato giusto se nelle feste in classe una parte dei bambini avessero cantato delle canzoni delle quali erano esclusi gli altri. E poi, dopo quello che è successo a Parigi, qualcuno lo avrebbe considerato una provocazione anche pericolosa, una scelta che però non trova assolutamente tutti d'accordo, anzi, perché è chiaro che tu puoi, di fronte a queste situazioni, di fronte alla festeggiare il Natale, tradizione religiosa, diciamo nella maniera della tradizione religiosa italiana, cattolica, puoi farlo esibendolo come un vessillo e nei confronti di questa specie di guerra di civiltà o di religione che secondo alcuni stiamo vivendo, ma puoi farlo anche semplicemente come base per un'identità comune da condividere anche con gli stranieri, tanti che ci sono in Italia. Fai la tua bella festa di Natale e così spieghi le tue tradizioni agli altri, agli stranieri, anziché, diciamo, nasconderle. E questa era un'altra alternativa. Infatti basta andare su alcuni giornali, Libero e Il Giornale ci aprono. Non arrendiamoci, scrive Libero, più presepi, meno imam. Un'altra scuola cancella la festa di Natale. Il Giornale: arresi al califfo, Natale chiuso per Islam. Scrive Sallusti: qui non è questione di buonismo o razzismo, questa è stupidità che offende, oltre ai cristiani, la storia di questa nazione laica, nata da una guerra al Papa, re e dello Stato Pontificio, ma che mai si è sognata, neppure tra una cannonata e l'altra, tra una confisca e l'altra di beni ecclesiastici, di radiare dai luoghi pubblici i simboli della fede religiosa. E con questo chiudiamo la rassegna stampa, ci risentiamo dopo il GR delle 8, saremo con il garante per gli scioperi Alessio, poi avremo con noi Davide Van der Sloss, Luca Mercalli, insomma, a dopo. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funky up, uptown funky up. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, buon sabato a tutti da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. E da Carlo Gabardini, buongiorno. Buongiorno, 800 24 00 24. Naturalmente vi aspettiamo, come sempre, ogni sabato e domenica per stare insieme a noi. Oggi come? Milano Monterosa? Beh, sta venendo fuori un timido sole, ma sì, è bello. C'è quell'arietta un po' che sembra di essere in montagna. L'aria fredda col sole, che bello. Finché non piove, molto bello. Assolutamente. Tra poco faremo un'intervista importante, sentiamo il garante per gli scioperi, perché è un periodino caldo, difficile, sono vari scioperi. E mi stai allertando, nel senso che è meglio che io stia zitto? No. Io capisco, è giusto, io se devo star zitto sto zitto, ci mancherebbe altro. Non mi permetterei mai. Svisceriamo un po' l'argomento, però poi insomma possiamo anche scherzarci su con chissà se il garante ha mai fatto sciopero, cioè da giovane, da ragazzo, ma quando certo, era studente. Ma uno sciopero l'avrà fatto anche lui. Ma no? Gli scioperi li facciamo tutti, nel senso che si fanno anche in casa gli scioperi, vorrei ricordare. Uno fa lo sciopero contro la propria mamma e tiene il broncio, e finché qualche cosa non accade tiene il broncio, anche quello è una forma di sciopero. Ah già, che tu sei esperto di queste cose, di queste relazioni familiari. Ma anche perché in relazioni, anche in relazioni, diciamo, fra uomo e donna, amorose, affettive, certo che si fanno degli scioperi, adesso senza entrare nei casi specifici, ma anche scioperi del sesso, certo. Il caso c'è tutta una letteratura. Esatto, certo. Era Medea, no, come si chiamava? Non era Medea, no, Medea no, era un'altra. Poi la troviamo, quella nella letteratura greca. Ho la netta sensazione che a un certo punto si arriverà in una città greca di 5 lettere che inizia per T, e quindi ho paura di fare una brutta figura, e siccome sabato mattina non lo faccio. Allora, cari ascoltatori, giochiamo oggi sulle frasi del ministro del lavoro Poletti, che oltre ad avere detto, facendo infuriare i sindacati, che l'orario di lavoro è arcaico, non serve più per misurare il lavoro, forse lui pensava a chi fa lavori immateriali, intellettuali, e non a chi sta in fabbrica tutto il giorno o guida l'autobus. L'altra frase è quella sulla scuola, sull'università, sugli studenti. Non serve a un fico secco laurearsi a 28 anni con 110 lode, cioè dovete fare in fretta, magari col voto più basso, fare esperienza, entrare subito nel mercato del lavoro. Ha detto. Che non c'è, perché io la cosa che non ho ben capito è perché tutta questa fretta quando poi uno è laureato a 22 anni, ma comunque prima dei 37 è un ragazzo che viene pagato a 320 euro al mese come stagista. Ma infatti noi diciamo proprio questo, insomma, accelerare può andare bene per molti, forse non per tutti, ma soprattutto noi siamo sostenitori da sempre di una vita un po' più slow, di un andamento un po' più lento nel quale ognuno recuperi il suo ritmo, il ritmo giusto per ognuno di noi. Allora noi vi chiediamo, perché insomma noi crediamo in questo, nel fatto che bisogna goderselo il viaggio, Che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. Citazione musicale, ci stava Cremonini. L'importante è godersi il viaggio. E allora noi vi chiediamo, quando per voi la lentezza è stata preziosa? Vi siete presi il vostro tempo, non so, a 40 anni avete cominciato a fare il bungee jumping anche a 60, oppure le composte di frutta, adesso state bene così perché magari vi siete trasferiti dalla città alla campagna. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Il concetto, e soprattutto il concetto della lentezza in un momento in cui appunto sembra tutto fast, contrapporre slow mi sembra interessante. E allora, quando vi è successo di capire che a volte slow è meglio di fast? Sì, vi siete presi un anno sabbatico. Per dire le parole inglesi che ti danno molto fastidio, esatto, adesso lo so. Ma questa volta va bene, slow mi piace. 800 24 00 24, cari amici all'ascolto, potete chiamarci, racconto più originale, più divertente sul vostro momento d'oro di lentezza. Anche oggi si aggiudica due biglietti il catalogo della mostra di Tamara di Lempicka a Verona, una mostra importante, anche questa organizzata dal gruppo 24 ore. Altro da dichiarare? Niente, possiamo iniziare? Possiamo assolutamente iniziare. Vabbè, sono finiti i tempi in cui lo sciopero era un momento epico, no? Perché lo sciopero sono serviti a tante conquiste per i lavoratori, per tutti. Oggi lo sciopero, insomma, viene vissuto male da tutti, è solo una rottura di scatole. Ma tutti vogliono andare di fretta. Ma perché lo si vuole rendere un po' così, però? Perché lo sciopero è sempre stata anche una rottura di scatole. E se non è una rottura di scatole, non è uno sciopero. Non è che io posso protestare senza dar fastidio. Se no uno dice, vabbè, ma quello non dà fastidio, evidentemente non protesta, va bene così, è inutile che gli dia i soldi che gli devo. Ne parliamo con il garante, il presidente della commissione di garanzia degli scioperi, Roberto Alessio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Allora, è un periodo, insomma, un po' caldino, no? Per gli scioperi. Ci sono tante notizie, sciopero dei trasporti a Roma, c'è stato lo sciopero poi rientrato alla Scala di Milano, manifestano oggi tra l'altro i medici, ma soprattutto ci sono le misure straordinarie in vista per il Giubileo. Questa è la prima domanda che le voglio fare. È vero che state pensando di sospendere per il Giubileo il diritto di sciopero, o la possibilità di scioperare per alcune categorie, oltre ai trasporti, anche altre categorie? Guarda, intanto salutiamo con favore qualche giorno fa in sede ministeriale, cioè con riferimento al Ministero delle Infrastrutture, è stato raggiunto questo importante accordo fra tutte le principali sigle sindacali, quindi il Ministero, e quindi con riferimento al settore del trasporto in generale non si sciopererà con riferimento a tutta una serie di date sensibili durante le quali ci saranno gli eventi più importanti del Giubileo. In quale periodo? A quale periodo facciamo riferimento? Il Giubileo inizia l'8 dicembre, durerà fino a novembre del prossimo anno, quindi sono state individuate una trentina di date sensibili attraverso le quali si snodano i principali eventi del Giubileo, e quindi con riferimento a questo settore del trasporto, quindi ferroviario, aereo, marittimo, locale, eccetera, cioè non sarà consentito scioperare. Questo lunedì noi questo accordo lo renderemo idoneo, valido, sì. Lo estenderemo, diciamo, con efficacia anche ergo omnes a tutte le altre sigle che non hanno firmato l'accordo. Ah, ecco. Questo riguarda Roma e che perimetro intorno a Roma o il territorio nazionale? Questo riguarda, diciamo, tutto il territorio nazionale, ma con riferimento ovviamente agli eventi che si svolgono qui a Roma. Insomma, perché l'evento è ovviamente un evento di carattere internazionale. Certo. È ovvio che, insomma, si estende anche oltre il territorio romano. E questo per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda invece gli altri settori? Allora poi è allo studio, lo valuteremo, insomma, sempre lunedì prossimo, perché ho seduta l'ipotesi poi di estendere di fatto sostanzialmente questo accordo anche agli altri settori che appunto erano stati esclusi dall'accordo medesimo e che sono altrettanto strategici, a partire, non so, dall'igiene ambientale, raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma anche con riferimento all'attività dei vigili urbani di Roma, e cioè, quindi estendere anche gli ospedali, ovviamente alla sanità che è di competenza regionale, ecco, di estendere sostanzialmente queste date anche ad altri settori. E quindi stiamo valutando questa ipotesi di fare una delibera di carattere generale. Lascio dire che oggi è una giornata importante, perché tutti i giornali riportano la notizia che ieri è stato finalmente firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del trasporto pubblico locale. Erano 7 anni. Questo è molto importante, sì. Questo contratto l'autorità sempre aveva auspicato, diciamo, un rinnovo, e devo dire che mi auguro davvero che, a seguito di questo evento così importante, questo settore così strategico e così tormentato del trasporto pubblico locale trovi finalmente un po' di pace e si vada incontro ad una lunga stagione di tregua sindacale. Un po' più di tranquillità sindacale, speriamo, se lo augurano tutti i pendolari, naturalmente, tutti quelli che usano i mezzi pubblici. Ma a proposito di trasporti e della sospensione in qualche modo del diritto di scioperare, o della possibilità di scioperare con l'accordo anche dei sindacati, perché questo accordo lo avete già raggiunto, lo ratificherete, ma per esempio i lavoratori dell'azienda romana TPL, no, che stanno, non solo gli unici che hanno scioperato, perché sono senza stipendio da mesi, ci sono lavoratori, è successo anche nel caso dei musei, che fece discutere molto, che erano senza pagamento degli straordinari da molto tempo. E cioè, queste persone, è giusto che non possano scioperare, oppure, cioè, è una questione anche proprio di sopravvivenza in questi casi? Guardi, questo è un altro capitolo della delicata questione dello sciopero. È vero, è veramente scandaloso, a dir poco, che molti lavoratori, non soltanto poi di questa importante azienda in realtà romana, ma tanti altri lavoratori che operano su tutto il territorio nazionale, e molto spesso non ricevono da tempo stipendi che peraltro sono molto bassi, quasi sono stipendi indegni per un paese civile. E questa è una cosa vergognosa, purtroppo capita, perché in certi settori è collassato autenticamente il sistema di finanza pubblica locale. e quindi abbiamo un problema legato al dissesto profondo in cui versano queste società pubblico-private che erano i servizi essenziali, che sono nella incapacità di pagare gli stipendi. Addirittura a volte assistiamo che la causa risiede nella mancata copertura finanziaria delle gare di appalto pubblico che vengono bandite per i vari realtà servizi, quindi questo è tutto un in questi casi molto complicato. Un garante per i scioperi battagliero. Io devo dire che da quando si è insediato da qualche settimana il commissario Tronca, con riferimento a questa vicenda, vedo che c'è stato un autentico cambio di rotta. Sono state stanziate le risorse, ovviamente trovate, ora è compito della società, cosa che peraltro già ha fatto perché mi è stata consegnata proprio ieri la documentazione relativa, pagare tutti gli stipendi arretrati, visto che adesso le risorse ci sono e quindi questa situazione si deve sanare al più presto, perché effettivamente i lavoratori, ha ragione in questo il prefetto Gabrielli, hanno completamente ragione. Quindi fanno bene a scioperare. Da mesi. È chiaro che lo sciopero poi deve avvenire nel rispetto delle leggi, della normativa, ecco perché l'autorità da questo punto di vista non può transigere. Gli scioperi selvaggi sono quelli che vengono fatti ex abrupto, cioè uno si alza la mattina e decide improvvisamente di non lavorare. Da solo e senza comunicare. Però se uno non riceve lo stipendio da tanto tempo, allora probabilmente gli viene anche voglia anche di farlo. Questo, esattamente, la giurisprudenza dell'autorità di garanzia è abbastanza, come dire, tenue, nel senso che a fronte di una situazione comprensiva da mesi e in certe circostanze addirittura da anni, che è una cosa veramente indegna, e l'autorità chiude un occhio giustamente e decide di non sanzionare quei lavoratori per il tramite dell'azienda. Perché, comunque, al di là di questo, mi auguro che tra il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del trasporto pubblico locale e tra le risorse reperite con grande abilità e con grande determinazione dal commissario Tronca, effettivamente anche qui la situazione romana si possa risolvere a vantaggio di un'utenza, dei cittadini che sono stremati, perché poi la vittima di tutta questa situazione qual è se non l'utenza? Certo. La legge sul diritto di sciopero nasce soprattutto per difendere i diritti dei cittadini utenti a poter usufruire dei servizi pubblici essenziali. Mi scusi, intanto è molto rassicurante sentirla dire che appunto ci sono lavoratori che non ricevono lo stipendio e che giustamente devono trovare il modo per farselo pagare. La cosa che io mi chiedo, nel senso che da un lato uno sente ci sono delle nuove norme per cui in alcuni ambiti non si può scioperare molto bene, nel senso che sono servizi indispensabili, ma che cosa possono fare questi lavoratori nel momento che si ritrovano in un ambito in cui non possono scioperare e non ricevono lo stipendio da 5 mesi, 4 mesi, 3 mesi, come diceva lei, degli stipendi che peraltro sono anche bassissimi e indegni? No, ma qui sa, c'è tutto lo sforzo che l'autorità di garanzia, ma tutte le altre istituzioni devono fare. Sono anni che io predico in realtà questo, affinché queste situazioni francamente non si verifichino. Però, i problemi sono complicati, perché qui noi viviamo una stagione che è drammatica, in cui le risorse pubbliche sono sempre meno a seguito, diciamo, della crisi economico-finanziaria. Però non ci vorrebbe anche uno sforzo di fantasia, magari anche da parte del garante, per individuare nuove forme di sciopero? Ma no, guardi, adesso questo è un discorso molto complesso. Guardi, lo sforzo di fantasia l'abbiamo fatto perché questo non era stato mai denunciato prima dalla Autorità di Garanzia. Noi addirittura sanzioniamo quelle aziende che molto spesso non pagano gli stipendi in modo regolare, perché la legge dice che quando il conflitto collettivo è in qualche modo generato o aggravato dalla irresponsabilità delle aziende pubbliche o private che erogano i servizi essenziali, queste sono destinatarie delle sanzioni da parte dell'autorità di garanzia. Sul banco degli imputati ovviamente non ci sono soltanto i sindacati lavoratori, ma ci sono anche i comportamenti omissivi delle aziende che erogano i servizi. Ah, questo è interessante ricordarlo intanto. Ma questo io lo dico ogni anno in sede, diciamo, di relazione annuale al Parlamento, lo dico alla politica, alle istituzioni continuamente. La legge ci impone anche di perseguire le responsabilità in capo alle aziende che erogano i servizi essenziali. Il problema è che molto spesso queste risorse pubbliche mancano perché mancano a monte. Se io bandisco una gara da una stazione appaltante, che poi è sempre, come dire, appunto un ente pubblico, e la bandisco senza adeguata copertura finanziaria, che significa? Che vince la gara si trova a non ricevere quel corrispettivo che sarebbe dovuto a seguito del fatto che ha vinto la gara. Però lei aveva auspicato proprio un cambiamento anche della legge che regola gli scioperi, per esempio all'indomani della decisione del governo di rendere i musei dei servizi essenziali. Certo, anche quindi è stata una vittoria. Ma è stato fatto qualche passo, però. Certo, no, questo è stato fatto. Certo, io mi auguro una rivisitazione più generale della legge, che rimane una buona legge. Attenzione, se non ci fosse la legge 147 del 90, gli scioperi non sarebbero 1500 o 2000 all'anno, come più o meno la tassona su tutto il territorio nazionale, ma sarebbero 10.000. Però lei aveva detto ci vorrebbe un cambio anche lì, perché altrimenti ci vuole un cambio, nel senso che punto fondamentale è cercare di raffreddare il conflitto collettivo di lavoro senza arrivare all'ipotesi dello sciopero, calandosi nelle controversie, cercando di mediare autenticamente tra datori di lavoro da un lato e sindacati dall'altro. Perché insomma, a me sale un dubbio, no? Ogni tanto, Garante. Perché bisogna rimuovere le cause da cui originano gli scioperi. Questo è la vera, diciamo, sfida. Esatto, sono talmente d'accordo con lei che insomma, a volte sembra che i dipendenti pubblici siano diventati un capro espiatorio di mille situazioni, di tutte le disfunzioni possibili, immaginarie, dove poi si trascurano invece il ruolo dei dirigenti oppure anche il ruolo politico di chi guida l'amministrazione pubblica, cioè insomma gli amministratori locali. Anche perché lo sciopero sembra una reazione, non è mai un'azione. E ce la si prende ormai in maniera, diciamo, senza più un briciolo di tolleranza contro le persone di turno che scioperano, a volte magari in maniera leggera, ma altre volte abbiamo visto perché ne hanno davvero necessità, perché per esempio non gli viene pagato lo stipendio. Stanno diventando un capro espiatorio i dipendenti pubblici, secondo lei? Sì, stanno diventando un capro espiatorio. Guardi, questo è un paese fortemente emotivo, dove improvvisamente poi tutto diventa una sorta di piazzale Loreto. Bisogna trovare qualcuno da sacrificare sull'altare per dire appunto il paese non va perché è colpa di questo o di quell'altro. E questo io lo trovo non solo irresponsabile, ma lo trovo a dir poco anche infantile. I problemi sono molto più complessi. È inutile dare la colpa ai dirigenti dello Stato o ai pubblici dipendenti o quant'altro, quando poi la responsabilità è sempre in capo alla politica. Mm. Ecco, allora qui bisogna che tutti quanti ci mettiamo con pacatezza, con serietà, intorno a un tavolo e vediamo quali sono i problemi da rimuovere, senza dire che è la colpa di questo o di quest'altro, perché questo francamente si può spiegare da un punto di vista politico e di ricerca del consenso elettorale, ma tanto tutto questo non porta a nulla se poi non c'è la volontà di sedersi intorno a un tavolo e di fare un minimo di concertazione per rimuovere le cause da cui originano i problemi. Senta, ma lei l'ha mai fatto uno sciopero, Garante, da ragazzo per esempio? Un sciopero studentesco? Non l'ho fatto perché mai uno? Io sono 25 anni che sono entrato nella pubblica amministrazione, peraltro per concorso, non ho mai fatto uno sciopero dalle prestazioni di lavoro, ma ovviamente io mi inchino di fronte al diritto di sciopero. Ma quindi all'epoca negli anni 70-80 gli scioperi erano soprattutto scioperi politici, certo, di carattere generale, e che erano talmente così importanti che si mandavano addirittura a casa i governi. Ora lo sciopero ha perso questa dimensione politico generale, sono molto più territoriali, legati poi alle crisi profonde che attraversano i vari settori. Ma nemmeno da studente. Meglio o peggio questo? È meglio o peggio che siano diventati non più scioperi politici, ma giusto semplicemente per avere il proprio stipendio? Ma guardi, questa è una bella domanda che poi insomma andrebbe anche, come dire, spiegata in termini politici ma anche sociologici. Non lo so, perché certamente noi siamo un osservatorio privilegiato dell'andamento del conflitto collettivo di lavoro e vediamo che su tutto il territorio nazionale è veramente questi scioperi in vari settori, non solo dei trasporti, ma della sanità, addirittura adesso della giustizia, dell'igiene ambientale. Veramente sono tantissime, sono la spia di un profondo malessere economico sociale che si sta attraversando. Questo ma nemmeno da studente Garante ha partecipato a qualche manifestazione. C'era la Pantera negli anni 90 quando andava all'università. Insomma, già stavo all'università, sono molto ligio al dovere. A questo punto l'hanno scelta proprio per quello. Ma almeno una manifestazione ci sarà andata. Il diritto costituzionale, che attenzione ragazzi, guardate che poi il diritto di sciopero, paradossalmente, io lo dico sempre, dovrebbe essere più, come dire, appunto usato nel settore privato, dove c'è la logica del padre padrone, in cui appunto il lavoratore effettivamente insomma ha uno strumento importante è quello di scioperare per rivendicare le proprie ragioni. Nel settore pubblico gli scioperi dovrebbero essere di natura residuale, ci dovrebbe essere l'estrema razio, come perché si dice. Sono, diciamo, pagati con i soldi del contribuente, sono soldi pubblici, i servizi dovrebbero funzionare sempre in modo regolare e in modo efficiente. Adesso qui assistiamo al fatto che nel privato a livello industriale non c'è più uno sciopero, a livello pubblico in realtà qui c'è una montagna in realtà, appunto, di scioperi. Indubbiamente ci dicono che questo Stato non sta andando. Speriamo che la stiano a sentire tutti, garante, sia i sindacati che i lavoratori che le aziende, tutti. Ma guardi, a quest'ora grazie. È un po' difficile, la gente dorme, insomma. No, ci ascoltano Radio 24 moltissimi, più la mattina della sera, si figuri. Noi le fanno fare un'altra faccia, guardate. Quelli che non scioperano dormono stamattina, esatto, giustamente. Esatto. Buon sabato, grazie, grazie per essere stato noi, buona giornata. Grazie, buona giornata. Allora, siamo andati lunghi, adesso dobbiamo fare la pubblicità, poi torniamo tra poco, 800 24 00 24. Queste erano le notizie sul fronte degli scioperi, tra pochissimo torniamo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, un po' di messaggi arrivano per esempio anche su WhatsApp al nostro 349-238-6666, numero degli SMS, per esempio sul garante, questo signore è stipendiato da anni dai cittadini, sì, è stipendiato, però cioè, non è che tutte chiunque... Tutte le volte che si sente o un dipendente pubblico o un politico... È stipendiato, cioè, però diciamo che serve a regolare questo settore abbastanza cruciale che è quello degli scioperi, quindi credo che possa essere considerato un servizio di utilità. Tra l'altro mi sarei aspettato una persona, diciamo, più critica nei confronti degli scioperi, invece no. Mi sembrava che avesse una visione molto lucida. Sì. Poi forse c'è da chiedersi, giustamente era molto contento del fatto che in certe date non si potrà scioperare. Personalmente penso che sia un po' un calendario stilato dal Vaticano, ma comunque mi chiedevo se lo Stato era rimasto laico anche in questa decisione che in quelle date precise del Giubileo non si può scioperare. Nel privato non si sciopera più perché ormai i sindacati sono addomesticati e non portano avanti le vere istanze dei lavoratori, ci scrive un ascoltatore. Poi qualcun altro invece si aggancia al discorso di Poletti, al nostro gioco sul, diciamo, la lentezza contrapposta alla velocità, e allora dice: slow meglio di fast, sul lavoro purtroppo mai. Ma noi vi chiediamo, cari ascoltatori, le vostre storie in cui la lentezza è diventata preziosa per voi nella vostra vita, quando avete preso l'anno sabbatico o se avete cominciato tardi a scoprire le vostre passioni, per esempio. Perché vogliamo sì, che ce le raccontiate quest'oggi in diretta. Tra poco 800 24 00 24. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, e allora abbiamo la prima ascoltatrice di oggi, Mina, che ci chiama da Milano. Buongiorno Mina. Pronto, buongiorno. Benvenuta. Grazie. Su cosa voleva intervenire? Sì, no, io volevo dire che ho risolto un po' la mia nervosismo, praticamente, che ho naturale, perché ho lavorato per tanti anni ad un ritmo molto frenato. In che settore, Mina? In che settore hai lavorato per molti anni? In una ditta a contatto diretto col titolare, cui era sei nervosita molto. Cui non si perdeva molto tempo. Sì. E poi che è successo? Finito il lavoro, praticamente, sempre io sono sempre stata appassionata di pittura. Ho aperto un laboratorio di pittura, per cui io vado tutti i giorni a dipingere, organizzo mostre per me e per altri, anche per fotografi. Sì. Raduno amici dove, oltre a bere il tè, possiamo anche raccontarci o declamare poesie, insomma è un anche angolo... Bello. Anche le poesie, ma non ho capito, Mina, il lavoro è finito per dare spazio a questa passione, oppure è finito perché doveva finire? No, praticamente per età, per questioni sì. di età. E quindi è arrivata al momento, diciamo, sulla soglia della pensione e di avere il tempo libero invece di mosciarsi, come Bravo. Capita a molte persone, o di abbattersi, adesso non ho più lavoro, anzi, meno male, ho tutto il tempo per fare... la pittrice. Esatto. Che mi dà Sì, sì, mi dà molto entusiasmo, mi carica e mi rilassa moltissimo e ho rallentato veramente il ritmo. Benissimo, Ina, ma i suoi quadri sono apprezzati? Sono abbastanza apprezzati, faccio delle piccole mostre nel mio piccolo. Li regala o li vende? No, non li regalo a nessuno perché non si può imporre regali e quadri. Il quadro o piace o non piace. Ma se io vengo da te, da lei, in una di queste mostre e mi piace un quadro, me lo voglio portare via, me lo regali o lo devo comprare? No, hanno provato a chiedermelo, mi piace, me lo regali? No, mi dispiace. Ah, proprio non li regala, Mina, va bene. È giusto, è un artista e il quadro lo si paga, mica uno fa beneficenza. Appunto, forse la vera cosa è che bisognerebbe imparare a anche mentre si lavora, durante la propria vita lavorativa, ciononostante non limitare le proprie passioni, o no? Forse bisognava dipingere anche mentre stavi lavorando. Ma io ho sempre dipinto alla sera. Ah, perfetto, non è che è una passione che è iniziata quindi ha portato avanti questo hobby e poi è diventata la passione principale. No, io quando grazie, ero piccola Mina. Mettevo le mie amiche sulla poltrona in giardino e gli facevo il ritratto. Madonna, ha cominciato proprio da ragazzina. Grazie Mina. Grazie mille. Buon sabato. E questa insomma, è la prima telefonata che si candida assolutamente oggi per il gioco. Adesso invece andiamo con uno dei nostri eroi quotidiani a Palermo. L'eroe di oggi è Marco D'Amico da Palermo, anzi da Brancaccio in particolare. Buongiorno Marco. Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, allora, sei bravissimo. Ma è preparatissimo. Marco, che insieme ad altri amici ha ripulito le pensiline della fermata del tram di Brancaccio, che non era ancora stata inaugurata, ma prima ancora che venisse inaugurata era già stata vandalizzata. E adesso è anche già stata ripulita, quindi è perfetto. Marco, sì, adesso è ripulita. Grazie a voi. Com'è andata questa storia? Ce la racconti? Sì, dunque è andata così. Diciamo che questo è il nostro secondo intervento. Noi eravamo già intervenuti a giugno scorso. Come avete detto voi, ancora il tram a Palermo è un'infrastruttura che ancora deve essere consegnata alla città. E quindi quando abbiamo visto che è stata vandalizzata in questo modo, con delle scritte un po' volgari oppure di affetto verso altre persone, veramente abbiamo avuto un moto della coscienza e quindi abbiamo detto no, non può essere una cosa del genere. Cosa avevano fatto? Com'era stata vandalizzata? Avevano fatto dei disegni, degli osceni graffiti, si dice esattamente così. E poi c'era un Amici per sempre, Luca ti amo, cose le classiche genere. Cose anche un po' così, sì. Banalotte, vabbè, insomma, fino a Luca ti amo va bene, no? Sì, va bene, però insomma non sulla panchina, no, da inaugurare, sto scherzando, ovviamente. Infatti, e quindi voi l'avete ripulita prima ancora sì, che arrivasse il tram? Esattamente, la prima volta ci siamo organizzati io e una mia amica, la mia amica Valeria, ci siamo organizzati da soli. Invece ieri abbiamo organizzato sui vari social proprio una piccola manifestazione coinvolgendo tutto il quartiere. Usando l'hashtag vogliamo il tram. Vogliamo il tram, esatto, e tramiamo civiltà. Bella questa, civiltà, bellissima. Bellissima. E quante persone hanno aderito? Ma hanno aderito, guarda, non tanto. Perché finché si parla è facile, poi andare con la scopetta. Sì, quando ci si lamenta siamo tutti bravi dietro una tastiera. Eravamo una quindicina di persone, non tantissimi, ma di più della prima volta. Ma soprattutto, con che prodotti si pulisce una pensilina? Esistono dei prodotti proprio per pensiline? Sgrassatore? Io sono ignorante, chiedo scusa, ma ho dei dubbi anche sui fornelli. Sono ignorante anch'io in materia, tant'è che io ho scritto un'email a tutti i negozi della zona, i negozi che vendono prodotti. Qualcuno mi ha risposto, gentilmente ci ha offerto avevate anche la sponsorizzazione, ma siete fantastici. Beh, anche questo mi sembra molto bello. Ma voi siete bravissimi. Il paio con le strade social, cioè il fatto di usare il quartiere, di chiedere ai negozianti del quartiere, molto bello questo. Esatto, ci hanno offerto questo materiale, infatti ringrazio Tony, ci ha offerto tutto il materiale, i diduenti, la carta. Abbiamo ripulito tutto, ma la cosa più bella è stata che il giorno dopo noi già avevamo programmato di ripulire una terza pensilina, perché le pensiline vandalizzate erano due, quindi dovevamo ripulire quest'altra. Il comune ha ripulito quella pentilina, quindi la nostra iniziativa ha smosso addirittura. Bello, meraviglioso, un circolo virtuoso. Potete venire però a casa mia a pulire il mio salotto se volete. Il giusto lieto fine per questa storia. Vedete che Palermo c'è, resiste e lotta insieme a noi. Grazie Marco D'Amico e tutti. Grazie gli amici mille. Di Vogliamo il Tram. Noi ci fermiamo qua, tra poco in studio con noi Davide Van de Sfross, ci sarà da divertirsi. Un bellissimo ritorno con un disco inedito con l'orchestra sinfonica, questa volta. Ma non è qua l'orchestra, qua c'è solo Davide. Certo, è ovvio. A tra poco dopo il GR. Deborah, ti piacciono le favole? Ma certo. E allora è arrivato il momento di dimostrarlo scrivendone una per Natale. Ma chi la scrive? È il nostro amico Andrea Vitali insieme ai nostri ascoltatori, vero Andrea? Sì, dal 1 al 24 dicembre io darò un incipit nuovo. Così gli ascoltatori potranno completarlo scrivendo un pezzo di favola sul sito di Radio 24. E il migliore verrà letto in trasmissione e riceverà il nostro libro intitolato Secondo Canto di Natale. Siete pronti? Si può fare. Cronache da un paese migliore. Pistola giù in bas, la cella via da pie e la cambia al culo, di che a 5 minuti se spara sul tal su, l'aria le ferma e tremen anche i sas, di uomini in della via han deciduto di occupas, pulita buca aperta che tengan fermo il can, e il becamor del barda e intanto il frega i man. Spari per la Juve, per la partita scupa, e vardo un triz in faccia che son quel che te cupa, e prima de sparar, tentisi anche a Monfena, e si raggiù al burdel, o incontra anche la tua dona, parla, pirla che tra un po' te parla e pie, te mandi giù all'inferno col vesti che te ghez, e ti che al demoni, quante la domanda, a quel che ma spara, che rispisa la panda, correte, correte, anch'era carusel, Mariangela Meves, che cane il colpo in cana, registra tu cosche che il vento malmentana. Eccoci qua, quello che state ascoltando, cari ascoltatori, è un brano inedito per le radio italiane, Il Duello, una canzone di Davide Van de Sfross del nuovo album Sinfonia. E intanto diamo il buongiorno a Davide che è qua in studio con noi, bentornato. Buongiorno a tutti. Che bello, è sempre bello averlo qua in studio con noi e sentire della musica con anche dal vivo. Con tutti i suoi 50 elementi. Esatto, perché eccolo qua, 50 elementi come solo gli anni di Davide Van de Sfross, che ha deciso con questa operazione di festeggiare il suo compleanno. Hanno un album che esce appunto il 4 dicembre, Sinfonia, in cui tu rivisiti le tue storiche canzoni, alcune delle tue storiche canzoni, grazie al lavoro del maestro Vito Lorè, che ha arrangiato, riarrangiato i brani in questo modo. Esatto. Così qualcuno. È proprio così. Qualcuno che dirà: ma perché hai fatto sta cosa? Sei messo. È colpa dell'età, potrei dire. È colpa dell'età, come dicono dalla mia parte, e te se siete sbassato, no? Quando uno avanti ti sei un po' abbassato, certo, di sentimento, però ovviamente a 50 anni uno può anche dire, insomma, a parte che voglio dire, non l'ho deciso io, devo dirlo a onore del vero. Ma infatti devi raccontarcela la storia di come è avvenuta, perché però è molto bella. Però quando è capitato questo invito a nozze, ho detto: ma perché una volta tanto non sbraghiamo coi 50 elementi, insomma, facciamolo sta cosa. Allora, da ieri in radio si può ascoltare un altro singolo di questo album, Nina Nanna, scusate, del contrabbandiere, questo è Il Duello, sentiamolo ancora un pochino perché è un inedito. E Andrea telefonà all'era la mia donna, sa che godena. Ma avete deciso di utilizzare proprio lo stile Morricone in qualche sì, modo? Sì, perché poi devi capire che il maestro Vito Lorè ha abbastanza attitudini con colonne sonore e roba del genere, quindi non è certo un novellino. Quando lui ha fatto questo lavoro di riarrangiamento ha pensato molto all'effetto cinematografico. Nel disco ci sono tanti altri brani, anche quelli lenti come Breva e Tivan, che diventano molto epici nella loro certo. calma, nella loro visionarietà, e devo dire che sono toccanti. Sono state delle grosse sorprese anche per me, ma io credo che la cosa più affascinante è quando io me li sono immaginati quelli della, perché questa che suona è l'orchestra comunque della Bulgaria, della, di Sofia, l'orchestra della radio di Sofia, dove lì sono bravi, veloci, e praticamente il maestro ha detto vado lì a registrare, o andava lì o andava in Macedonia, quindi è andato in Bulgaria, e io me li vedo sti bulgari a cercare con gli spartiti di Davide Van der Sproos, che diciamo. Credevano di suonare chissà che cosa, non si aspettavano che poi uno avrebbe cantato su delle cose in dialetto del lago di Como. È più difficile il bulgaro o per quello, un italiano la lingua bulgara magari, o il dialetto laghe, eh? Si può fare un confronto tra il laghe e il bulgaro? Io credo che il bulgaro per secondo me è più semplice. Per un bulgaro sicuramente è più facile capire il dialetto che l'italiano. Ti leggo una domanda di un sms che ci è arrivata, che è per te. Premetto che parafrasando una pubblicità di quando eravamo piccoli a scatola chiusa compro solo Bernasconi, che non delude mai. Bernasconi è il vero cognome di Davide Van der Sproos. Rivestire di nuove sonorità canzoni ormai scolpite nel cuore dei fan in fondo è un'operazione coraggiosa. Cosa hai provato tu risentendo le tue bimbe con queste nuove vesti cucite da altri, Patrizia e Giuliano? Mi sono sentito abbastanza tranquillo, perché tutto sommato questa è un'operazione che non va a cambiare o a scalfire le canzoni che ormai sono impresse dentro la memoria uditiva di tutti, quelle rimangono lì e tornano subito già da febbraio in poi nella normalità. Però ste canzoni, ste figlie, vogliamo fargli fare un giro una volta tanto su una carrozza un po' addobbata in modo diverso? Sì, perché se no altrimenti, se si ha paura anche della musica, viviamo proprio nel terrore più totale di tutto. Io devo dire che quando ho risentito gli arrangiamenti mi sono veramente stupito, ed è stato un gioco, un divertimento sicuramente imponente, che mi ha fatto rivedere anche a ritroso, no? Lo sviluppo di queste canzoni nella storia. Però vi garantisco che sentire queste sonorità, adesso non sono mica il primo, i Kiss, i Deep Purple, i Metallica, chi che sia, hanno fatto comunque orchestre con l'orchestra sinfonica, ma loro con tutta la band. Io ho lasciato proprio solo la mia voce e i loro strumenti, come un cartone animato, va preso anche con un po' di leggerezza, insomma. E questa contaminazione promette di essere molto interessante, alto-basso se vogliamo, perché tu sei un cantante folk, lo hai detto prima, insomma, hai sempre usato gli strumenti della musica popolare, del pop, dalla chitarra agli strumenti da band. Adesso ti sei unito in matrimonio con qualcosa di più alto, se vogliamo. In questa esperienza sì, però ricordiamo, il disco esce, sarà un ricordo, sarà una testimonianza. Che però si potrà anche ascoltare dal vivo il 30 gennaio al Teatro degli Arcimboldi. Sempre un sms arriva, scusami se prima era molto gentile, adesso invece chiedono il nuovo album di Davide, esce anche in vinile? E chi lo sa, questo qua bisogna chiederlo ai signori occulti dei... Io mi ricordo, per esempio, Yanez uscì anche in vinile, certo. Adesso io non so quali misteriose regole della discografia per fanno soddisfare sì che un tutti disco i palati potrebbe anche darsi che esca in vinile. La cosa che mi viene anche da chiederti è com'è stare sul palco senza chitarra, perché ti abbiamo sempre visto con la chitarra, invece questa volta tu avrai le mani libere, non sa dove mettersi le mani. Guarda, comunque come quando ti lascia andare, ti sorregge un'orchestra di 40 e passa elementi e tu ti lasci andare e sei più, se vogliamo, più libero dal punto di vista istrionico, perché sei meno legato. Dall'altra parte devi proprio stare attento, perché tu ti stai affidando a quella ritmica e il maestro ti dirige. La cosa bella è che il maestro dirige tu anche me. Tu sei abituato a comandare attacchi, il tuo gruppo, certo. Se perdo un giro rientro quando voglio. Qui io, mentre registravo sopra la musica, era eccezionale vedere come in alcuni punti, anche nel duel stesso, c'è un momento. Se te che insegna ti fede, salam. Cioè, capito? È un momento in cui tutti i fiati, tutti gli strumenti dell'orchestra obbediscono perfettamente al maestro. Certo, è un gioco di squadra. E se diventa. Tu non t'appoggi perfettamente su di loro, loro non riescono a sorreggerti. E quindi è stimolante, sicuramente. Dobbiamo fare le informazioni dalle strade, poi torniamo di nuovo con gli ascoltatori all'800 24 00 24 se hanno anche delle domande per Davide Van Des Frost, che potremo sentire il 4 dicembre a Milano al Mondadori Megastore, dove ci sarà il firmacopio, insomma la presentazione del disco ufficiale, e poi il 30 gennaio al Teatro degli Arcimboldi a Milano. Torniamo tra pochissimo. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti e buon sabato. Caro Davide Van Des Frost, noi stiamo chiedendo anche ai nostri ascoltatori oggi di raccontarci quando per loro la lentezza, diciamo un concetto di vita slow, è diventato un momento prezioso per loro, quando a 40 anni o a 50 anni hanno abbandonato tutto per fare marmellate, che ne so, per abbandonare la città e tornare in campagna, oppure quando si riscoprono le proprie passioni molto tardi. Tu hai scoperto la passione per l'orchestra sinfonica, per esempio, a 50 anni, che non è molto tardi, no, però no, non è mai quella tardi. C'era già prima, non mi sarei mai sognato di frequentarla anche sul palco. Comunque sia, la lentezza per me è un concetto assoluto ormai, è diventato, credo, negli ultimi 15 anni già io ho maturato l'idea che la velocità ci stava comunque colpendo i fianchi, ci stava sfiancando e ci ha rovinato e ci ha portato veramente anche al di là dei suoi pregi, ci ha portato certo. Veramente anche tantissimi danni. Perché la velocità può essere positiva, come dice il ministro Poletti, a 20 anni bisogna studiare, lavorare, non bisogna aspettare, ha detto 28 anni, laurearsi con 110 lodi, ma bisogna cominciare a sporcarsi le mani prima con delle esperienze di lavoro, però questa per vita poter essere disoccupati fretta, fin da esatto. Giovani. Quindi lo sapevo che la dicevi questa un'altra volta. Per insomma, noi vi vogliamo, cari ascoltatori, su questo oggi, vogliamo i vostri momenti di lentezza, perché accelerare può andare bene magari per alcuni, ma non per tutti. Paolo da Verona, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie buongiorno. Dell'attenzione. Prego, su cosa volete intervenire, Paolo? Beh, volevo raccontare molto molto velocemente la mia storia. Intanto vi saluto tutti, saluto anche l'ospite che apprezzo moltissimo. Grazie. Ma volevi raccontare molto molto velocemente la tua storia sì. Di lentezza? Sì, è bellissimo. Allora, puoi no. Raccontarla con calma. Ma non troppa calma. Perché un minuto, esatto, forse meglio. Allora, fondamentalmente la mia storia è questa. Io sì. in questo momento, dopo una vita, sì. Dopo che lo studiamo da una vita, sono riuscito a entrare a medicina, a fare il test d'ingresso ed entrare alla veneranda età di 36 anni. Per cui in pratica mi trovo in situazione con 18 anni appena usciti dal... Cioè a 36 anni hai superato il test d'ingresso per la facoltà di medicina? Sì, al primo tentativo, ho fatto 3 mesi. Beh, al primo tentativo dopo aver fatto per tanti anni qualcos'altro? Dopo aver qualcos'altro. Fatto per il dipendente, esatto, sì, fatto okay. Per il dipendente. Come infermiere, che cosa facevi? No, assolutamente. In un altro campo? Di comunicazione e marketing completamente diverso, anche se il sogno è sempre stato quello di essere medico. Fare medicina. Già, perché non l'hai è fatto prima? È una storia bellissima già come parte. Storia molto complicata. E poi? Famiglia che non mi poteva consentire tutti gli anni di studio. Ok. Hai dovuto accantonare questo sogno per alcuni anni. Adesso al primo colpo sei entrato nella facoltà. Come ti trovi a fianco dei giovanissimi? Allora, direi che i diciottenni di oggi sono molto diversi dai diciottenni dei miei tempi, però è veramente un'esperienza estremamente gratificante. Bene. Quello che volevo anche porre attenzione, insomma, è che per potermi permettere 6 anni di studi senza sì. Dover diventare matto per sostenermi, insomma, ci ho messo 5 anni a prepararmi, però sono riuscito ad arrivare ad aprire un'attività insieme al lavoro da dipendente sì. Per potermi permettere gli studi. Ok, ma se ci hai messo 5 anni a prepararti dal punto di vista economico o per prepararti il test di ingresso? È più economico, il test in ok, hai dovuto mettere da parte serio. Qualcosa per poterti, diciamo, consentire. Ho messo in piedi un'attività, un e-commerce, sì. Fondamentalmente non voglio farmi pubblicità, però insomma, che mi ha consentito di crearmi quel redditino che mi consente di coprirmi le spese. Ma insomma, che storia, Paolo! Ma continui, continui il lavoro dipendente? No, adesso è una situazione, siccome che poi le missioni le ho date veramente in questi giorni, e quindi lavoro cerco di trasformare il lavoratore dipendente in un lavoro a partita IVA, no? Certo, certo, certo. Bravo Paolo, complimenti. Vedi, complimenti. Ministro Poletti, che non è mai troppo tardi, altro che a 28 anni con 110 lode. Paolo si laureerà forse a 40 42 con 110 lode, speriamo. Spero di essere un tuo paziente. Grazie Paolo, grazie, complimenti. Grazie ancora, in bocca al lupo, arrivederci. Complimenti. Arrivederci. Tra l'altro l'ascoltatore Paolo che chiama da Verona, i biglietti e il catalogo della mostra che mettiamo in palio oggi è Tamara dell'Impiccica a Verona. Ma non è che avrà dei vantaggi per questo. Si candida fortemente. Andiamo con Antonio dalla provincia di Napoli, buongiorno. Antonio. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire? Io volevo intervenire per un fattore molto semplice, un fattore sociale. Sì? Allora, io nel settore dei scioperi sono d'accordissimo, perché io ho incominciato un'età molto giovane e per poter lavorare mio padre mi dovette autorizzare con la sua firma a 14 anni. Mm-hmm. Quindi volevo dire, io sono contento che i nostri politici sono molto intelligenti, molto savoir-faire, tutte queste belle cose. Però mi dispiace che continuamente offendono l'intelligenza degli italiani. Perché? Perché non è giusto che un popolo italiano deve essere schiavizzato. A tornare indietro all'epoca di Lincoln. Cioè lei dice che queste limitazioni alle scioperi di cui abbiamo parlato col garante sono... Loro vorrebbero eliminare le sciopere dalla Costituzione, perché ci vogliono schiavizzare. Beh, no, non credo che nessuno voglia eliminare dalla Costituzione il diritto di sciopero, non è questo. No, lo vogliono lasciare in Costituzione, però fare regolamentato. Antonio, si sarà anche lei arrabbiato qualche volta andando a prendere il tram quando c'era lo sciopero, no? È umano. Mi sono arrabbiato, però io non ho mai offeso chi lo faceva. Questo è giusto. Loro avevano le loro motivazioni. Questo è giusto. Antonio, grazie per il suo intervento. Insomma, Antonio, anche con la sua età, ci ricorda che insomma, noi siamo partiti così, dicendo lo sciopero era qualche cosa di epico. Adesso forse per certi aspetti lo è di meno. Si sciopera, l'ho detto anche il garante, meno per questioni generali, politiche, più per questioni strettamente contingenti però, e personali. Cioè, lavoratori che non hanno lo stipendio pagato da mesi hanno diritto anche di scioperare. Punto sta poi trovare un equilibrio. Infatti ringraziamo l'ascoltatore che giustamente ricorda che è un diritto lo sciopero ed è anche garantito dalla nostra Costituzione all'articolo 40. Adesso allarghiamo un po' i nostri orizzonti, perché Parigi, che è stata al centro degli attentati il 13 novembre, ieri con la commemorazione delle vittime è stata di nuovo al centro dei riflettori mondiali, sarà al centro ancora per qualche cosa di completamente diverso, perché partono i negoziati dell'ONU per il clima e questa caravan è la notizia. Caravan petrolifera. Non potevamo non fare questa citazione petrolifera, perché alla vigilia dei negoziati di Parigi sul clima la Svezia ha annunciato di voler fare a meno del petrolio il prima possibile, quindi diciamo diventa forse il primo paese in Europa a fare questa scelta in maniera chiara e totale, soprattutto, cioè il prima possibile e totalmente. Questo diamo è il progetto. Buongiorno e benvenuto a Luca Mercalli. Buongiorno a tutti voi. Mercalli, climatologo naturalmente, e insomma che seguirà da vicino questi negoziati di Parigi. Intanto la scelta della Svezia è una scelta isolata per ora in Europa, e se no, lo può permettere la Svezia? Non è affatto isolata, anzi la Svezia arriva, ma forse accoppiato dalla sua cugina Danimarca, che questa scelta l'ha fatta già molti anni fa, e direi che il paese è un po' simbolo e capofila di una volontà di intervenire in modo concreto contro i cambiamenti climatici. Io ho conosciuto il ministro svedese, danese del clima e dell'energia, che mi ha detto: noi da soli non salveremo il mondo perché siamo 6 milioni, ma vogliamo fare questa scelta per dimostrare agli altri che possono seguire questa strada. Ok, e per quanto riguarda, no, perché uno potrebbe dire, no, beh, in Svezia c'hanno il nucleare, facile fare a meno del ma lo stanno chiudendo il nucleare, lo stanno chiudendo anche quello? Lo stanno chiudendo, quindi non è quella la soluzione. Prima di tutto ha tanto idroelettrico, ha tanta acqua, ha tanti boschi, quindi usa anche molto la biomassa e non ha una elevatissima popolazione. Certo, sono 10 milioni. Sono un po' più facili. Però hanno anche ideato in questo modo delle tecnologie di efficienza energetica che poi possiamo importare e copiare anche noi. Perché invece noi qua cosa stiamo facendo ancora? Stiamo pensando, cioè vediamo la Svezia che vuol fare a meno del petrolio, ci sono i negoziati di Parigi, adesso apriremo anche questo scenario, e in Italia si pensa a trivellare nell'Adriatico e in Basilicata, che appare una cosa, a molti appare una cosa folle, perché sarebbe come recuperare un ritardo ormai, non so, storico dell'Italia. Su questo. Direi che il problema italiano è la incoerenza delle politiche. Noi abbiamo delle ottime cose in Italia, abbiamo delle ottime iniziative di risparmio energetico, abbiamo dei comuni che si impegnano in maniera encomiabile, abbiamo delle aziende che producono materiali per l'efficienza e il risparmio energetico, le nuove energie rinnovabili, che sono al top nel mondo. Quindi tu dici però incentiviamo quelle, non stiamo dietro, non andiamo a correre dietro al petrolio. Ma c'è il petrolio in Basilicata? Ce n'è, no? Ce ne sarebbe? Sì, ma ce n'è, no, non parecchio. Tutto il petrolio italiano, anche quello ancora da tirare su, se lo tirassimo su al massimo ci potrebbe nutrire per un paio d'anni. Allora, teniamocelo come materia prima, perché col petrolio si fanno anche altre cose interessanti invece di bruciarlo, si fa la petrolchimica che ci è pur sempre utile, una piccola riserva strategica di petrolio interno che io non tirerei su, e usiamo invece il sole, usiamo il vento, anche usiamo perché l'acqua, due anni non sono poi tantissimi, cioè non è un orizzonte temporale italiana, di cui siamo anche bravi, perché esatto. Ricordo che di fotovoltaico noi ormai abbiamo 18 gigawatt e siamo il quarto paese al mondo per investimento in fotovoltaico. È proprio l'incoerenza, cioè o decidiamo di andare da una parte o dall'altra, non si possono percorrere tutte e due insieme. E infatti Svezia e Danimarca dicono la nostra politica è questa. Noi invece facciamo cose buone, ma con l'altra mano facciamo cose cattive, e diamo quindi anche un messaggio contraddittorio ai cittadini. E soprattutto è anche un po' una questione di investimenti, perché io leggendo la notizia della Svezia, la cosa che mi ha colpito è che, diciamo, a differenza dei nostri politici che spesso fanno degli annunci, loro dicono per il 2016 stanziano 546 milioni di dollari solo per incentivare fonti non fossili nel paese, e gli stanziamenti per il solare aumentano dell'800%. Se si facesse così anche da noi, forse anche noi riusciremmo a cavarcela senza petrolio, o sbaglio? Penso di sì, ovviamente ci vogliono degli anni, non è una cosa che si fa in un attimo, noi siamo già su una buona strada. L'importante sarebbe proprio questo, smetterla di voler accontentare tutti e dire la strada che scegliamo è quella, si va tutti di lì, e invece continuando un po' a dare un colpo al cerchio, una alla botte, ecco, non si esce mai. È un po' come fare una dieta. La dieta non si può fare soltanto a mezzogiorno e di sera ci si abboffa. La dieta bisogna farla a colazione, a pranzo, a cena. L'esempio mi sembra la dura verità, è la dura verità, purtroppo. Luca Mercalli, professore, resti con noi ancora, perché vogliamo aprire anche un po' lo scenario di quello che ci aspetta su questi negoziati di Parigi. Quali sono gli obiettivi? Io però voglio chiedere a Davide Van der Sfross, se, perché questa cosa dei cambiamenti climatici, no? È un classico tema, non ci sono più le mezze stagioni. Cioè, tu che raccogli storie nella provincia della Lombardia, Comasca, eccetera, è cambiato il clima veramente o no? Cioè... Allora, i proverbi sono rimasti inalterati, sai, al tempo non si comanda, non ci sono più le mezze stagioni, non ci si sa più come vestire, mumelle colt, mumelle frette. Ma questo però si diceva anche cent'anni fa, quando il clima non era cambiato. Da sempre. Io devo dire una cosa, che c'è stato tutto un periodo nel quale io sentivo parlare di surriscaldamento del pianeta e c'erano le profezie di un deserto, addirittura la vinificazione, che quello che oggi è il Brunello di Montalcino, andando avanti lo otterremo più o meno tra la Svizzera e la Germania, perché salendo, perché giù sarà terra bruciata, terra arsa. Quindi dopo tutte queste profezie io mi sono reso conto, con gli inverni che abbiamo avuto, che in realtà eravamo di fronte a una glaciazione. C'era un freddo cane. Ma forse visto. Perché lì in provincia di Como è ma sì, è un freddo della Madonna, perché praticamente se lì dici ma come sul riscaldamento del pianeta? E questa cosa i ragazzi del bar la dicono, i ragazzi dagli 80 ai 90. Hai sentito? Però fino all'altro ieri faceva molto caldo ed eravamo già a novembre. Ecco, fino adesso, a 2 novembre faceva un caldo. Sì, è il cold mea just. È che nel pago, ma appena fa un po' caldino, sì, anche in autunno stai bene, arrivano torvi e dicono quel col che il va me a bene, non va bene, non per pagheremo, niente. Hai sentito Luca Mercalli? Caro. Hai sentito? Qua non ci si capisce più nulla su questa benedetta questione del riscaldamento climatico. Sarà che guardiamo le cose troppo da vicino, invece voi ci dite che dobbiamo guardare su vasta scala, no? Allora, io saltavo sulla sedia quando ho sentito queste cose, perché non sono affatto vere, sono veramente le chiacchiere del bar. Forzaci, sì, forzaci nell'ambito della scienza. Il giorno è bianco, il giorno dopo è nero. Le chiediamo scusa, ha ragione. Un bicchierino di più e il caldo diventa freddo, il freddo diventa caldo. Non si capisce allora più nulla. E non c'è più la nebbia. La nebbia, infatti, è una delle conseguenze della diminuzione della nebbia, è sia l'aumento della temperatura degli inverni, che non sono affatto glaciali, ma sono caldi, tranne qualche settimana qua e là, dove il freddo per fortuna ancora arriva, e poi anche male, perché è cambiato il mix dell'inquinamento. Abbiamo meno nebbione semplicemente perché usiamo meno combustibili ad alto tenore di zolfo, come si usavano negli anni 70, e quindi è cambiata la composizione delle particelle dell'inquinamento. È vero che c'è meno zolfo e quindi meno nebbia, ma abbiamo altri tipi di inquinanti che comunque fanno sempre male alla salute. Questo purtroppo non cambia. Invece la temperatura cresce, cresce ovunque, cresce in Italia, cresce a livello globale, è salita di circa un grado a livello planetario nell'ultimo secolo, e in Italia, in particolare sulle Alpi, inclusa la zona dei laghi, abbiamo un grado e mezzo in più. Vedi che se meraviglia. Infatti dai laghi si sale ancora un pochino più in alto, magari in Valtellina, uno vede gli effetti sui nostri ghiacciai. Abbiamo perso il 50% della superficie glaciale alpina. E questa è una prova secca. Io penso che sia qui anche tempo finalmente di sfatare queste profezie veramente allucinanti. Quanche il fioca in sulla foglia, le perché che una mena voglia. Cosa vuol dire se nevica prestissimo è perché non ha voglia. Quella volta che siamo stati sommersi da una neve che la gente non si muoveva più neanche dal garage di casa, aveva come nevicato sulla foglia, per così dire. Quindi queste cose, sì, basta, non ne possiamo più. La differenza è proprio questa: i proverbi non funzionano, la scienza sì. Giustissimo. Questa mi sembra una risposta perfetta. Invece, quali sono gli obiettivi di questa COP21? Parlando proprio in termini di gradi di surriscaldamento del pianeta, bisogna ridurre di quanto? Allora, per ora ne abbiamo messo su uno rispetto alla normalità nell'ultimo secolo. Se si fanno degli accordi per ridurre le emissioni che alterano il clima, cioè tutto quello che noi bruciamo da carbone, petrolio e gas, si vorrebbe rimanere entro 2 gradi, cioè aggiungerne ancora uno da qui al 2100, e che vuol dire ancora tutta una serie di grane, perché se già ci sono problemi adesso con un grado, dobbiamo raddoppiare ancora, e questa è la misura di sicurezza, viene definita comunque il limite di sicurezza. Cioè si lotta per non peggiorare troppo. Per non peggiorare troppo, esattamente. Se invece a Parigi non ci si mette d'accordo e si lascia tutto com'è e si continua su questa strada, il rischio è di averne 5 in più a fine secolo. Quindi lo scenario del Brunello, diciamo, di Montalcino in Svizzera. E chi sono i paesi su cui bisogna puntare gli occhi in questi negoziati? Quelli che sono più restii ad entrare nell'ottica, in questa ottica di, diciamo, di lavorare? Adesso, insomma, le proposte sono tutte abbastanza incoraggianti, cioè quasi tutti i paesi mondiali hanno messo sul piatto la loro proposta di riduzione, è stata lasciata libera la modalità e la quantità di ciascun paese. Quindi chi fa meglio è l'Europa. E all'interno dell'Europa. Per una volta siamo bravi, pensa un po', ci diamo sempre la croce addosso invece. Esatto. Insomma, diciamo che siamo belli un po' più avanzati e più consapevoli, proprio grazie a quei paesi che abbiamo citato prima, proprio sì, Danimarca, a Svezia, a Germania. Però chi sta facendo meglio di tutti è la Svizzera in questo momento, come proposta, come sì, proposta. Ma è vero che l'Etiopia invece è quella che ha la proposta più avanzata di tutti di ridurre del 64% le emissioni di gas serra, l'Etiopia? Beh, dobbiamo vedere poi anche che tipologia di stati stiamo parlando. Cioè è ovvio che l'Etiopia già emette poco, fa un buon programma, però le condizioni locali sono di un paese estremamente povero. Al contrario dobbiamo guardare gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono il top invece dell'inquinamento. Infatti è quello che ti chiedevo, i paesi incriminati. Ha fatto una buona proposta, una riduzione finalmente dell'ordine di un 25%, però è una proposta meno efficace di quella europea. Quindi staremo a vedere cosa effettivamente uscirà da Parigi, se, prima di tutto, se si mette la firma su tutti, che tutti sono d'accordo sulla procedura, perché bisogna accettare in sostanza una riduzione vincolante, cioè se io dico faccio meno 30% entro il 2050, sì, poi dopo lo devo fare, cioè, no? Ci sono delle sanzioni, mentre prima non ci sono mai state. Insomma. E questo, diciamo, è l'elemento che c'è già, insomma, in campo da un po', adesso bisogna stringere. Grazie Luca Mercalli, grazie per essere stato con noi, buon sabato. Grazie mille. Salve. Per averci, diciamo così, aperto un po' gli occhi sullo scenario che da domani sarà al centro delle trattative a Parigi. E ci ha anche bacchettato sull'uso dei proverbi per il clima. Eterno conflitto tra lo scienziato da secoli che ci sono queste vaticini a livelli druidici. Trop musk quest'estate. Sarà un inverno di neve, ma perché? Ma come fare? Messaggi per Davide Van der Floss dopo la pausa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. In spalla e rampega in se la noce, prega la luna di me falcia pa, prega la stella di Vardante che va, prega il sente di portame la ca. Questa che state ascoltando è la versione della Nina Nanna del Contrabbandiere di Davide Van der Floss, che canta accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Vito Lore, l'orchestra nazionale bulgara della radio di Sofia. Esatto. Fra l'altro hai registrato tra Roma e Sofia proprio. E Como. E Como. Sì, praticamente il triangolo è bellissimo. C'è stato un lavoro fatto a Sofia per quanto riguarda proprio la registrazione dell'orchestra. Poi un lavoro a Como dove abbiamo fatto appunto l'incisione, le voci, tutto quanto. E poi un lavoro a Roma dove gli specialisti del hanno mix tutto. Del mastering di questa tipologia proprio di ascolto hanno fatto il lavoro, diciamo, quello tecnico. Sinfonia si chiama questo album che esce il 4 dicembre e il 4 dicembre sarai proprio a Milano al Megastore Mondadori per presentarlo, e poi il 30 gennaio al Teatro degli Arcimboldi ti esibirai con questa stessa orchestra? Sinfolario lì, perché praticamente non è che potevamo andare su coi pullman da gente dalla Bulgaria, no. Quando farai il tour in Bulgaria suoneranno loro, ovviamente. Sì, assolutamente. Ti aspetta, allora, ci sono dei messaggi che sono proprio di quelli clamorosi per Davide, mitico Davide Van der Floss, al 342-238-6666. Ho chiamato mio figlio Davide in suo onore, dice Tiziano da Roma. Arrazzante, per responsabilità. Beh, poi insomma c'è chi dice un grande saluto al nostro maestro Davide, che da 10 anni accompagna la mia vita, grande artista. Oppure sono un dottore commercialista, non lo trovo più, l'avevo visto prima. Insomma, tantissimi messaggi. Ciao Davide, questo è in dialetto. Indu-che-ka-sem, si legge così? Indu-che-sem. Dove che siamo? Dove ci troviamo? L'unica cosa che io sono chiaro. Milanese, ci tengo a sottolineare che io questi messaggi non li vedo perché sono quelli di WhatsApp e io non sono dotato di un terminale per leggerli, perché la persona, diciamo, più adatta fino a leggerli. Dove che sempre potevo arrivarci anche da solo, ecco. Che figuraccia. Che brividi la Nina Nanna, ancora un altro ascoltatore. E poi c'è chi invece sul nostro gioco gioco e sulla lentezza contro la velocità, dice Enrico da Varese: da quando ho 50 anni ho ripreso la mia vecchia Vespa e ho iniziato a girare con gli amici vespisti, gli Slow Riders, bellissimo, 24.000 km in 4 anni, pazzesco. Fermi tutti, a ecco. 50 anni io che non ho mai avuto il motorino, mi è stato regalato un sì. Della Piaggio, originale di 25 anni fa, proprio inno alla lentezza, basta fast play, fast sì, quello con la sella lunga, il sì, sì, sì, sì, certo, sì, sì, ma... ciao era quello con la seggiola, no, con no, la sedia... no, questo è proprio il sì, con sì. Anche il variatore automatico vai su un po' dalle salite, consuma pochissimo, devi farti la miscela, mi sa che devi farti la miscela a casa, devi fartela giù con le uova sbattute, queste cose qui, no, no, ma c'è ancora qualcuno che alla Piaggio ha ripreso a farli, o no, no, no, originale, comprato da una persona che regalo che gli è stato mandato ed è arrivato in ritardo, è stato comprato 25 certo. A 50 anni, è perfetto, una roba anche il cinquantino a 50 anni, stupendo. Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi torniamo con un ascoltatore, Franco da Monza, tra poco. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori. Davide Van der Stross, c'è un ascoltatore che chiede dove si può trovare l'album che tu hai detto che avevi prodotto anche in vinile, che lui lo sta già cercando su internet e non l'ha trovato. Io so che l'avevamo prodotto anche in vinile perché ne ho una copia a casa, quindi era non Janez, sto a farne di capo. Era Janez. Sì. E dove si può trovare? Non lo so. Scrivete a Davide Van der Stross Produzioni e forse, non so, l'unica copia ce l'hai tu in questo momento. Forse. Non credo, perché no, ne ho regalate anche due o tre, quindi siamo più persone ad averlo. Il ma giallo, certo, del vinile di Janez. Vabbè, ascoltatore, devi, diciamo, tra l'altro è giallo il vinile, è giallo, quindi si vede, è giallo anche la bene, copertina proprio, sì. Comunque se vai su Google, il primo che si apre è Janez 2LP vinile Van der Stross Davide vinileshop.it, quindi, quindi abbastanza c'è semplice. Ascoltatore, dai, sveglia. Sì, un doppio, tra l'altro un doppio in esatto. Quanto Franco da Monza, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Cosa volevi intervenire, Franco? Ma sto sentendo appunto che tutti rincorrono le chimere del tempo, è sempre corto, è sempre lungo. Allora da tempo io mi sono dato, come posso misurarmi il tempo, come posso gustare il mio tempo? Sì. E ho trovato una soluzione per me vivibile giornalmente che è, guarda caso, il semaforo. Al semaforo tutti imprecchiamo, abbiamo sempre premura. Un minuto dura, signori, un minuto, e io mi godo questo minuto e sto calcolando quanto è lungo un minuto. Allora la vita è lunga, la vita è breve. No, la vita è lunga, la viviamo male, allora diventa breve. È bellissimo, questa è filosofia pura, cioè lei praticamente, Franco, tu Franco praticamente al semaforo quasi in maniera sadica osservi gli altri che soffrono e dici siete malati, siete malati. Ecco, perché bisogna fermarsi, bisogna rendersi conto che è come quando nevica, no? Che bisogna rallentare e bisogna farsene una ragione, e lì sta il segreto. Quale segreto? È bellissimo, uno diventa padrone del tempo, gusto il tempo secondo per secondo. Grazie Franco, momenti di filosofia. Un'Italia migliore. Cronache da un'Italia migliore. Allora, tra poco diremo anche chi alla fin fine ci ha convinto di più con la sua risposta sulla lentezza. Adesso è il momento di un altro piccolo approfondimento, perché AXA premia i ragazzi di Scampia con Nati per Proteggere. Si conclude così l'iniziativa che avete sentito anche diciamo attraverso i microfoni di Radio 24. Il AXA aveva messo in palio 50.000 euro per una realtà di protezione sociale, grande o piccola, che i lettori, insomma gli ascoltatori, hanno potuto votare sul sito www.natiperproteggere.it. Adesso abbiamo il nome del vincitore, è il Centro Hurtado di Scampia, e abbiamo con noi, oltre Enrico Cavallari che è responsabile marketing di AXA, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Benvenuto, abbiamo buongiorno. Soprattutto padre Fabrizio Valletti, direttore del Centro Hurtado, buongiorno anche a lei. Il vincitore. Buongiorno. Valletti, ci presenti padre Valletti il Centro Hurtado e poi ci dica anche come spenderete questi 50.000 euro che avete vinto. Complimenti. Sono molto contento di questa occasione che l'AXA ci ha in qualche modo offerto, sì. E tutti i nostri sostenitori hanno approvato, hanno applaudito, vi hanno votato, vi hanno scelto, sì. Di che cosa vi occupate in una zona, insomma, particolarmente complessa come quella di Scampia? Noi abbiamo un progetto di, soprattutto di formazione, partendo dai bambini con scuola di musica, lettura, cinema, fino a poter offrire ai ragazzi più grandi del quartiere un sostegno scolastico se hanno dei problemi, e poi soprattutto la formazione al lavoro. Dalla formazione al lavoro abbiamo avuto la possibilità di impiantare una piccola cooperativa con due laboratori. E questa è particolarmente bella questa cosa che fate, perché di cosa vi occupate in particolare in questo centro di formazione? Noi abbiamo fatto formazione per elettricisti, grafici, informatica, però diciamo i due corsi che sì. hanno poi avuto l'effetto di procurare il lavoro sono per la sartoria per delle donne e poi per dei giovani una legatoria e restauro del libro. Bello. E tra l'altro sappiamo che, mi scusi padre Valletti, la sartoria prego. È a Napoli, insomma nei dintorni di Napoli, è una cosa particolarmente importante, non solo perché la moda per l'Italia, tanti distretti sono importanti, ma anche perché sappiamo, Gomorra di Saviano ce l'ha fatto scoprire, che proprio nei sottoscala dell'illegalità spesso si cuciva per le firme importanti, quindi lavorare nella legalità in questo settore, esatto, è questo fondamentale. Io però ho un minuto per far parlare anche Cavallari, gli voglio chiedere un bilancio di questa iniziativa Nati per Proteggere 2015, Cavallari. Ma innanzitutto grazie, una bella storia questa, siamo molto contenti che abbia vinto il premio e quindi possa continuare a investire in protezione, perché alla fine AXA è una grande compagnia di assicurazione, il mondo significa protezione, protezione è un valore alto ed è la promessa su cui noi ci impegniamo a creare la relazione con chi sceglie. Nati per Proteggere è un progetto che nasce per dare voce, visibilità ed opportunità alle tante storie e progetti di protezione portate avanti ogni giorno nel nostro paese Italia, storie anche sconosciute. E tra l'altro, potete andare sul sito Nati per Proteggere e vedere, perché c'è uno spaccato anche di una certa Italia, una bella Italia vorrei dire. Grazie Cavallari di AXA, grazie soprattutto grazie a padre Valletti del Centro Hurtado. Grazie a voi anche per il sostegno. Grazie, complimenti a tutti e complimenti a Davide Van der Vroos, soprattutto grazie. Con il suo nuovo album Sinfonia, e lo potete trovare dal 4 dicembre e poi sarà a Milano, l'abbiamo detto anche il 30 gennaio. Cimboldi. Io devo solamente dire che alle 17 sono in Trentino a presentare il mio libro Fossi in te insisterei al Teatro di Pergine, grazie alla piccola libreria, e ci sarà anche Flavio Romani a chiacchierare con me. Ciao a tutti, ci sentiamo domani, grazie a Claudio Schiattone, Andrea Piana, Carmelo Rolicella in regia, un abbraccio, a domani. Ciao da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini e da Davide Van der Vroos. Ciao a tutti.